Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Fummo veramente molto fortunati con la stagione. Per 10 o 12 giorni il tempo si mantenne perfetto, fermo in quella specie di magica sospensione, di immobilità dolcemente vitrea e luminosa che è particolare di certi nostri autunni. Faceva caldo nel giardino, quasi come se si fosse d'estate. Chi ne aveva voglia poteva tirare avanti a giocare a tennis fino alle 5:30 e oltre, senza timore che l'umidità della sera, verso novembre già così forte, danneggiasse le corde delle racchette. A quell'ora, naturalmente, sul campo non ci si vedeva quasi più, però la luce, che tuttora dorava laggiù in fondo i declivi erbosi della Mura degli Angeli, pieni, specie la domenica, di folla lontana, ragazzi che correvano dietro al pallone, balie sedute a sferruzzare accanto alle carrozzine, militari in libera uscita, coppie di fidanzati alla ricerca di posti dove abbracciarsi, quell'ultima luce invitava a continuare, a insistere in palleggi, non importa se ormai quasi ciechi. Il giorno non era finito, valeva comunque la pena di restare ancora un poco. Tornavamo ogni pomeriggio, dapprima preavvisando con una telefonata, poi nemmeno. E sempre gli stessi, ad eccezione ogni tanto di Giampiero Malnate, il quale aveva conosciuto Alberto a Milano fin dal 33 e, diversamente da quel che avevo creduto il primo giorno incontrandolo davanti al portone di casa Finzi Contini, non soltanto non aveva mai visto prima d'allora i 4 ragazzi con cui si accompagnava, ma non aveva mai avuto nulla da spartire né col circolo del tennis Eleonora d'Este, né col suo vicepresidente e segretario, marchese Ippolito Barbicinti. Le giornate apparivano troppo belle e insieme troppo insidiate dall'inverno ormai imminente. Perderne una sola sembrava proprio un delitto. Senza darci appuntamento, arrivavamo sempre intorno alle 2, subito dopo mangiato. Spesso succedeva da principio che ci ritrovassimo raggruppati tutti quanti insieme dinanzi al portone come il primo giorno, in attesa che Perotti venisse ad aprire. Più tardi, tuttavia, dopo circa una settimana, essendo stato istituito tanto di citofono e di serratura comandata a distanza, entrare nel giardino non rappresentò più un problema, sicché sopraggiungevamo il più delle volte alla spicciolata, come capitava. Per quel che mi riguarda, non mancai un pomeriggio, neanche per fare una delle mie solite scappate a Bologna, ma neppure gli altri, se ben ricordo, né Bruno Lattes, né Adriana Trentini, né Carletto Sani, né Tonino Collevatti, ai quali si aggiunsero negli ultimi giorni, oltre a mio fratello Ernesto, altri 3 o 4 ragazzi e ragazze. L'unico che, come ho detto, venisse con minore regolarità era il Giampiero Malnate. Cominciò Micol a chiamarlo così, premettendo al nome e cognome l'articolo, e presto l'uso fu generale. Aveva da fare i conti con gli orari di fabbrica, che non erano severissimi, è vero, confidò una volta, dato che, di gomma sintetica, lo stabilimento dove lui lavorava, uno stabilimento imposto dal regime alla Montecatini ai tempi delle inique sanzioni e tenuto poi su per esclusive ragioni di propaganda, non ne aveva finora prodotto nemmeno un chilo, ma insomma erano pur sempre orari. Le sue assenze, in ogni caso, non duravano mai più di 2 giorni filati. D'altra parte, era anche l'unico, lui, oltre a me, che a giocare a tennis non mostrasse di tenere esageratamente. Giocava piuttosto male, per la verità, spesso accontentandosi, quando compariva in bicicletta verso le 5, dopo il laboratorio, di arbitrare una partita o di sedere in disparte a fumare la pipa e a conversare con l'amico Alberto. Comunque sia, i nostri ospiti erano anche più assidui di noi. Si poteva capitare prestissimo che ancora dovevano battere le 2 al lontano orologio di piazza. Per presto che si arrivasse, si era sicuri di trovarli già sul campo e mai giocando fra loro, adesso, come quel primo sabato in cui eravamo sbucati nella radura dietro la casa dove il campo si trovava, bensì controllando che tutto fosse in ordine, la rete a posto, il terreno ben rullato e annaffiato, le palle in buone condizioni, oppure stesi su 2 sedie a sdraio con grandi cappelli di paglia in capo, immobili, a prendere il sole. Come ospiti non si sarebbero potuti comportare meglio, davvero. Sebbene fosse chiaro che a loro il tennis inteso come puro esercizio fisico, come sport, interessava fino a un certo punto, ciò non di meno restavano lì fin dopo l'ultima partita, quasi sempre tutti e due, l'uno o l'altro sempre, senza mai accomiatarsi in anticipo col pretesto di un impegno, di cose da sbrigare, di un malessere. Qualche volta erano proprio loro, anzi, nel buio pressoché totale, a insistere perché si facessero ancora quattro palle, le ultime, e a risospingere in campo chi già stava uscendone. Il campo, come avevano subito notato il primo giorno Carletto Sani e Tonino Collevatti, non si poteva certo dire che valesse molto. Da pratici quindicenni, troppo giovani per aver mai calcato terreni di gioco diversi da quelli che costituivano il giusto orgoglio del marchese Barbicinti, essi erano partiti immediatamente, senza affatto curarsi di abbassare la voce tanto da non essere uditi dai padroni di casa, a stendere l'elenco dei difetti di quella specie di campo di patate. Così si era espresso uno di loro, piegando le labbra in una smorfia di disprezzo. E cioè, quasi niente out, in particolare dietro le righe di fondo, terreno bianco e poi mal drenato, che per poco che fosse piovuto si sarebbe trasformato in un pantano. Nessuna siepe sempreverde a contatto delle reti metalliche di recinzione. Se non che, non appena avevano posto termine alla loro partita, Nicole non era riuscita a impedire che il fratello la raggiungesse sul 5 pari e a questo punto avevano lasciato lì, i medesimi difetti si erano affrettati a denunciare senza ombra di reticenza, direi anzi con una sorta di sarcastico entusiasmo autolesionistico, Alberto e Nicole stessi, a gara. «Eh sì», aveva detto allegramente Nicole mentre ancora stava passandosi un asciugamano di spugna sul viso accaldato, «per gente come noi altri, abituata ai terreni rossi dell'Eleonora d'Este, sarebbe stato ben difficile ritrovarsi a proprio agio su quel loro polveroso campo di patate. E l'out? Come avremmo fatto a giocare con così poco spazio alle spalle? Ahimè, in quale abisso di decadenza eravamo precipitati, poveri noi! Quanto a lei, però, lei aveva la coscienza a posto. L'aveva ripetuto infinite volte al papà, che occorreva decidersi a spostare di almeno 3 metri le reti metalliche di fondo e di 2 quelle laterali. Ma già, lui, il papà, con la mentalità tipica degli agricoltori, che la terra, a loro, se non serve a piantarci roba, gli sembra buttata via, aveva sempre nicchiato, calcolando anche sul fatto che lei e Alberto, su un campaccio del genere, ci avevano giocato sempre, fin da bambini, e perciò potevano benissimo continuare a giocarci anche da grandi. Adesso comunque era diverso. Adesso avevano ospiti, illustri ospiti, per cui sarebbe tornata alla carica con rinnovata energia, tanto seccando e tormentando il canuto genitore che per la primavera prossima, con 99 probabilità su 100, lei e Alberto sarebbero stati in grado di offrirci finalmente qualcosa di degno. Sogghignava apertamente, intanto, sicché a noi, in coro, non era restato altro che smentire, assicurare che tutto andava lo stesso ottimamente, che il campo non contava e poi non era niente male, magnificando la cornice in compenso, e cioè il parco, davanti al quale era stato Bruno Lattes a dirlo, proprio nel momento in cui, sospesa la loro sfida alla morte, Nicole e Alberto ci erano venuti incontro, i rimanenti parchi privati cittadini, quello del Duca Massari compreso, sbiadivano al rango di pettinati giardinetti borghesi. Ma il campo di tennis non era degno, veramente, e inoltre, essendo unico, obbligava a turni di riposo troppo lunghi. Così, alle 4 in punto di ogni pomeriggio, soprattutto allo scopo, forse, che i 2 quindicenni della nostra eterogenea compagnia non fossero indotti a rimpiangere le ore molto più intense dal lato sportivo che avrebbero potuto trascorrere sotto le ali del marchese Barbicinti, ecco spuntare invariabilmente Perotti, col collo taurino teso e rosso per lo sforzo di reggere nelle mani guantate un grande vassoio d'argento. Era stracolmo il vassoio, di panini imburrati all'acciuga, al salmone affumicato, al caviale, al fegato d'oca, al prosciutto di maiale, di piccoli volovan ripieni di battuto di pollo misto a besciamella, di minuscoli buricchi usciti certo dal prestigioso negozietto kasher che la signora Bezzabea, la celebre signora Bezzabea, da Fano, conduceva da decenni in via Mazzini, a delizia e gloria dell'intera cittadinanza. E non era finita. Il buon Perotti aveva ancora da sistemare il contenuto del vassoio sul tavolino di vimini appositamente preparato davanti all'ingresso laterale del campo, sotto un largo ombrellone a spicchi rossi e blu, che era raggiunto da una delle figlie, o la Dirce o la Gina, ambedue all'incirca della stessa età di Micol e ambedue a servizio in casa. La Dirce come cameriera, la Gina come cuoca. I due maschi, Titta e Bepi, il primo sui 30 anni, il secondo di 18, badavano al parco, invece, nella doppia mansione di giardinieri e ortolani. E più che a intravederli talvolta in distanza, curvi a lavorare, rapidi a volgere su noi trascorrenti in bicicletta il lampo dei loro occhi azzurri e ironici, più che a tanto non eravamo mai riusciti. Essa, la figlia, si era a sua volta tirata dietro, giù per il sentiero che portava dalla Magna Domus al tennis, un carrello con le ruote gommate, carico anche questo di caraffe, cuccume, bicchieri e tazze. E dentro le cuccume di porcellana e di peltro era contenuto del tè, del latte e del caffè, dentro le imperlate caraffe di cristallo di Boemia, della limonata, del succo di frutta, dello schivasser. Una bevanda dissetante, quest'ultima, composta d'acqua e sciroppo di lampone in parti eguali, con aggiunti una fetta di limone e qualche chicco d'uva, che Micol prediligeva su tutte e di cui si mostrava particolarmente orgogliosa. Oh, lo schivasser! Nelle pause del gioco, oltre a addentare qualche panino che sempre, non senza ostentazione di anticonformismo religioso, sceglieva tra quelli al prosciutto di maiale, spesso Micol tracannava a piena gola un intero bicchiere del suo caro beverone, incitandoci di continuo a prenderne anche noi, in omaggio, diceva ridendo, del defunto impero austro-ungarico. La ricetta, aveva raccontato, le era stata data proprio in Austria, a Hofgastein, nell'inverno del 34, l'unico inverno che lei e Alberto, coalizzati, ce l'avevano fatta ad andarci per una 15ina di giorni da soli, a sciare. E sebbene lo schivasser, il nome lo diceva, fosse bevanda invernale, ragion per cui avrebbe dovuto essere servito caldo bollente, tuttavia anche in Austria c'era gente che, d'estate, continuava a prenderne così, in versione ghiacciata e senza fetta di limone, e lo chiamavano Himbeerwasser, in questo caso. Comunque, prendessimo ben nota, aveva aggiunto con comica enfasi, alzando un dito, i chicchi d'uva, importantissimi, era stata lei, di propria iniziativa, a introdurli nella classica ricetta tirolese. Era stata un'idea sua, e ci teneva, c'era poco da ridere. Rappresentava l'uva il particolare contributo dell'Italia alla santa e nobile causa dello schivasser, ovvero di questo, più esattamente, la particolare variante italiana, per non dire ferrarese, per non dire eccetera, eccetera. Gli altri di casa ci volle un certo po' di tempo prima che cominciassero a farsi vedere. A questo proposito, anzi, il primo giorno era accaduto un fatto curioso, tale che a ricordarmene verso la metà della settimana seguente, quando né il professor Ermanno né la signora Olga erano ancora apparsi, mi aveva indotto a sospettare da parte di tutti quelli che l'Adriana Trentini chiamava in blocco il Cotè Vecchi, l'unanime decisione di tenersi alla larga dal tennis, forse per non imbarazzare, chissà, per non snaturare con la loro presenza ricevimenti che in fondo non erano ricevimenti, ma semplici riunioni di ragazzi in giardino. Il fatto curioso era accaduto all'inizio, poco dopo che ci eravamo accomiatati da Perotti e da Ior, rimasti là a guardarci mentre ci allontanavamo in bicicletta lungo il viale d'accesso. Superato il canale Panfilio, attraverso uno strano, massiccio ponte di travi nere, la nostra pattuglia ciclistica era dunque arrivata a un centinaio di metri di distanza dalla solitaria mole neogotica della Magna Domus, o, per essere più esatti, dal ghiaiato, triste piazzale interamente all'ombra che le si apriva davanti, quando l'attenzione di tutti era stata attirata da due persone ferme proprio in mezzo al piazzale. Una vecchia signora seduta in poltrona, con un cumulo di cuscini a sostegno della schiena, e una giovane bionda e prosperosa, dall'aria di cameriera, ritta in piedi dietro di lei. Non appena ci aveva veduti venire avanti, la signora era stata scossa da una specie di soprassalto. Dopodiché si era subito data a fare grandi segnalazioni con le braccia per significare che no, non dovevamo andare oltre, procedere verso il piazzale dove lei stava, dato che lì, dietro, altro non c'era che la casa, bensì prendere a sinistra per il sentiero coperto da una galleria di roselline rampicanti che lei ci indicava, al termine del quale Nicole e Alberto stavano già giocando. Non si sentivano, dal punto dove eravamo, gli schiocchi regolari che le loro racchette facevano rimandandosi la palla? Avremmo automaticamente incontrato il campo di tennis. Era la signora Regina Herrera, la madre della signora Olga. L'avevo immediatamente riconosciuta dal particolare, intenso candore dei folti capelli raccolti a cercine sulla nuca. Capelli da me sempre ammirati, ogni volta che, al tempio, da bambino, mi succedeva di intravederli attraverso la grata del matroneo. Agitava braccia e mani con bizzosa energia, facendo nel contempo segno alla ragazza, che era poi la Dirce, che l'aiutasse a tirarsi su. Era stanca di star lì, aveva voglia di rientrare, e la cameriera aveva obbedito all'ordine con istantanea sollecitudine. Una sera, tuttavia, contro ogni aspettativa, furono il professor Ermanno e la signora Olga in persona a comparire. Avevano l'aria di essere passati dal tennis per caso, di ritorno da una lunga passeggiata nel parco. Si tenevano a braccetto. Lui, più piccolo della moglie e più curvo, molto, di quanto non fosse 10 anni avanti, all'epoca dei nostri sussurrati colloqui a sinagoga italiana da un banco all'altro, indossava uno dei suoi soliti leggeri abiti di tela chiara, con un panama dal nastro nero calato sulle spesse lenti del pince-nez e appoggiandosi per camminare a una canna di bambù. Lei, la signora, tutta in nero, recava in braccio un grosso mazzo di crisantemi, colti evidentemente in qualche remota parte del giardino nel corso della passeggiata. Li teneva stretti al petto di traverso, cingendoli col braccio destro in atto teneramente possessivo, quasi materno. Quantunque ancora dritta, alta più del marito di tutta la testa, anch'essa appariva molto invecchiata. I capelli le erano diventati completamente grigi, d'un grigio brutto, tetro. Sotto la fronte ossuta e sporgente, gli occhi nerissimi brillavano tuttavia dell'ardore fanatico e patito di sempre. Chi di noi sedeva attorno all'ombrellone si alzò, chi giocava smise. «Comodi, comodi», fece il professore con la sua gentile voce musicale. «Non disturbatevi, prego, continuate pure a giocare». Sandro Lombardi ha letto «Il giardino dei Finzi Contini» di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.